La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 40 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. Qui Oscar Giannino, e questo martedì 30 maggio 2017 vi dico subito, ricordatevi l'indirizzo, la versione di Oscar @24.it, di che cosa parliamo oggi. Tenteremo di capire, non ho nessuna ambizione di spiegare, perché non sono versato nell'arte ruspicina, che è quella che forse serve per capire le contorsioni della politica in atto in questi giorni. Sapete, si sta trattando su un allineamento di proposta di riforma elettorale su un proporzionale al 5%, erroneamente definito tedesco, è un proporzionale al 5%, in cui l'elemento proporzionale prevarrà, anche se vi dicono che votate anche per un collegio, avete una scheda unica, vale solo il proporzionale. Ma su questo schema, su cui c'è la convergenza di Renzi, Berlusconi e i 5 Stelle, c'è l'ipotesi di andare a votare a settembre. E allora noi tenteremo di capire, al di là di quello che voi pensiate su questo calendario e sulle ragioni di questa accelerazione, sempre che il capo dello Stato sia d'accordo, il problema che riguarda che cosa succede se si va a votare a settembre con la sessione di bilancio, la legge di bilancio che va presentata entro il 15 di ottobre, visto che è difficile immaginare con un proporzionale un governo eletto la sera stessa, perché sulla base di un programma di coalizione non è così. Due, siccome poi a quel punto la scadenza per la presentazione della legge di bilancio incombe, e se si va a votare a settembre si pensava al 24, c'è chi ha detto il 10, mettiamo che sia la seconda settimana e non il 10, ma comunque sia i tempi sono strettissimi. Allora, è compatibile l'ipotesi del voto a settembre con quella di una sessione di bilancio in tempi ordinari e che non faccia scattare l'esercizio provvisorio nel trimestre successivo? In teoria l'esercizio provvisorio c'è apposta, ma come la pensa il Quirinale su questo, sempre che l'abbiamo capito noi giornalisti? 1. 2. Come interpretare dei segni? Vediamo, io ho due ospiti, chiederò a loro, che sembrano fuoriuscire, sia pure in maniera non troppo perspicua, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da Palazzo Chigi, in ordine a come rassicurare l'Unione Europea, A, B, come rassicurare i mercati, che avete capito ieri sono un po' preoccupatini, C, anche come non farsi fare obiezioni formali sostanziali dal Quirinale. Allora io vi leggo alcuni titoli che c'erano oggi sui quotidiani come sfondo per capire quali sono questi segnali e a quali bisogna dare in maniera più attendibile retta. Per esempio il Messaggero oggi titola: manovra in affanno, quella per l'anno prossimo, servono 20 miliardi, sottinteso le clausole fiscali previste da Renzi che scattano dal 1 gennaio dell'anno prossimo, trema la borsa, eccetera eccetera. Ma catenaccio del pezzo: tesoro già al lavoro, Padoan tratta con l'Europa per dimezzare lo sforzo. E vabbè, qua mi scappa da ridere, perché è come sulle due venete, noi trattiamo sempre per dimezzare tutto. Il possibile stallo politico, continua il Messaggero, post elezioni spaventa i mercati, balzo dello spread. Ok. Titolo della Stampa: una finanziaria a rate da votare in autunno. Per rassicurare i mercati, nel PD si ipotizzano più decreti estivi, quindi a carico del governo Gentiloni, che tra le tante cose da spazzino dei mari viene anche delegato, essendo una persona con una grande sobrietà istituzionale, pronto ad andarsene sul campanello, ma anche a fare un pezzo del lavoro, per così dire, levandolo dal piatto di un governo che non si saprà formato da chi dopo il voto proporzionale. E allora, una finanziaria a rate da votare in autunno, si ipotizzano più decreti estivi. In alternativa, continua il sommario della Stampa, possibile lo slittamento a marzo delle clausole IVA. E naturalmente slittiamo, perché ovviamente non possiamo farle decadere. Però, ultimo richiamo per capire di che cosa stiamo parlando. Proprio la settimana scorsa, quando sono arrivate le osservazioni formali dalla Commissione europea ai conti italiani, e cioè la richiesta dello 0,6% di PIL della manovra per l'anno prossimo, in realtà tutti i giornali, dopo qualche giorno di affannosa interpretazione se quello 0,6 andasse applicato all'effetto del deficit programmatico clausole fiscali che dovevano scattare per 19 miliardi e mezzo, incluse o escluse, alla fine tutti hanno capito che, sia pure non volendolo dire esplicitamente, la Commissione, poiché applicava a un deficit tendenziale del 2,3% di PIL, non l'1,2% che è posto nel programmatico, un programmatico non credibile fin dall'inizio del governo Renzi per il 2018, tutti dicevano, insomma, la Commissione non lo vuole ammettere, ma Moscovici e Dombrovskis stanno prendendo atto di quello che il governo aveva già messo per iscritto, che tanto il governo Renzi le clausole fiscali non le faceva scattare, se ne fotteva, cioè faceva finta che non ci fossero, che è un'altra maniera che a me lascia senza parole, ma comunque stava scritto così nel DEF. Allora, la domanda però è: questi 20 miliardi di clausola fiscale per l'anno prossimo ci sono o non ci sono? Perché la Commissione europea l'anno scorso, poi alla fine tutti hanno finito per scrivere che ce l'aveva praticamente abbonata e quindi ci chiedeva una manovretta da 9, 8, 9, 10 miliardi, ma non più da 20 e rotti? Vi ricordo che la clausola fiscale è 19 miliardi, per effetto del decreto che intanto si vota per la manovrina di quest'anno, che ha effetti anche per l'anno prossimo, era scesa più o meno a 14 miliardi. Ecco, io vi richiamo tutta questa baraonda confusa di elementi, perché sono certo che invece i nostri ospiti vi spiegheranno quali sono le preoccupazioni del Quirinale? B. Ma si vota o non si vota a settembre se si vuole fare la legge di bilancio? C. A quel punto è meglio andare in esercizio provvisorio o fare fin da adesso un decreto che rinvia le clausole? Oppure ancora, facciamo fare il lavoro sporco fin da adesso per la prossima finanziaria allo scaccino servizievolissimo e istituzionalissimo Gentiloni, Presidente del Consiglio? Allora, a queste domande rispondo. In primis Luca Cifoni del Messaggero, grazie di essere con noi. Ciao Oscar. E Alessandro Barbera, giornalista della Stampa. Buonasera, ciao Oscar. Luca, tu come la pensi? Ma hai fatto più domande. Diciamo che ovviamente sulla variabile politica, insomma, sembra che si vada all'autunno, poi se sarà a settembre, ottobre, lo dobbiamo ancora vedere. Intanto io faccio osservare preliminarmente, visto che hai parlato di esercizio provvisorio, che il problema vero è fare la legge di bilancio entro il 31 dicembre dal punto di vista della legge italiana, cioè di dire la legge di bilancio dovrebbe andare in Parlamento a metà ottobre, ma se ci va dopo non succede nulla, però scatta l'esercizio provvisorio se non è approvata entro il 31 dicembre, e questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto europeo, che dice che noi sempre al 15 ottobre dobbiamo mandare un pezzo di carta che si chiama documento programmatico di bilancio a Bruxelles, e lì hanno fatto capire che, come è successo in passato per la Spagna e, se non ricordo male, anche altri paesi, con elezioni in corso appena avvenute non starebbero lì a dire hai saltato la scadenza, e quindi sarebbe dato più tempo. Quindi in teoria, se capisco bene, si può andare a votare a settembre-ottobre, purché poi ci sia qualcuno, formato un governo, che presenta una legge di bilancio che si approva entro il 31 dicembre. Il problema vero è se noi abbiamo il Parlamento appeso, nel senso più forte del termine, che non dà luogo a un governo. Ecco, questo è il problema vero. Cioè, se per ipotesi da queste elezioni anticipate uscisse, o, cosa che mi pare improbabile, una maggioranza ben definita, ma comunque anche un governo che faticosamente nell'arco di un mese, 40 giorni, si forma, insomma, le cose si potrebbero fare, viceversa si complica il tempo. Che dice Alessandro Barbera su questo? Ma ci possono essere argomenti a favore e contro le elezioni. Diciamo, io, che pure non sono un grande fan delle elezioni anticipate, da cittadino, penso che non si deve essere, non bisogna avere visioni troppo ideologiche del problema. Se l'Italia fosse capace di dotarsi di una legge elettorale compiuta, coerente, che garantisce una maggioranza di governo, e questo accordo in Parlamento ci permettesse di andare a votare a settembre con la certezza che entro Natale c'è un nuovo governo nella pienezza dei suoi poteri. Alessandro, con tutte queste promesse non saremmo in Italia, non siamo in Italia. So. Ecco, fammi provare a prendere sul serio questa ipotesi, perché naturalmente fino a prova contraria dobbiamo credere che ciò sia possibile. No, questo obiettivamente adesso, fuori di battuta, è per dire che se i mercati sono preoccupati non è tanto per il fatto che si vada a votare, non credo che sia questo il problema in sé, certo. È l'incertezza attorno alle condizioni alle quali si va a votare, perché se si dice che si va a votare prima ancora di avere fatto un accordo vero sulla legge elettorale e non avere la certezza che con la legge elettorale ti garantisce una maggioranza coesa al giorno dopo le elezioni, è chiaro che i mercati reagiscono male, e a quel punto si cominciano a chiedere chi sarà ad approvare la manovra? Poco importa se, poco importa, diciamo, relativamente, è relativamente importante stabilire se ciò avverrà prima o dopo il 31 dicembre. L'esercizio provvisorio è previsto dalla Costituzione, non sarebbe un dramma. Ma se c'è un governo che imposta una manovra e poi questa manovra dovrebbe essere approvata in una sessione di bilancio da una maggioranza che non è, che forse non è quella che l'ha impostata, e se questa maggioranza dovrebbe fare i conti con delle procedure di bilancio che hanno delle regole, una delle quali è se ci fosse da approvare una nota di variazione al bilancio andrebbe fatto con maggioranze qualificate. Insomma, se a forza di se si scopre che alla fine l'Italia verso la fine dell'anno è un paese ingovernabile, trattandosi del terzo debito pubblico del mondo, quei cattivoni degli investitori, quelli che continuano a mettere soldi nel nostro debito pubblico, nel nostro debito pubblico che abbiamo fatto noi contribuenti e che è un debito pubblico che va onorato, beh, quegli investitori hanno dei timori e hanno giustamente si pongono delle domande sul futuro dell'Italia. No, scusa, il debito pubblico l'avranno fatto i politici, io contribuente no, però, e non mi dare colpe che non ho, ne ho tante nella vita. Ma diciamo, questo... noi contribuenti e i nostri rappresentanti i nostri rappresentanti che sono coloro che governano il paese. Vabbè, detto tutto questo, ti faccio una domanda e poi ritorno a Luca. L'aumento dell'IVA, questo la gente ce lo chiede proprio, ci bombarda su questo. Scatta automaticamente se nel frattempo non c'è un governo, non c'è una legge di bilancio che abolisce questa roba? Il primo gennaio, secondo la legislazione italiana, essendo già stato previsto nella programmazione pluriennale nell'ultima legge di bilancio per quello che riguarda il 2018, scatta automaticamente se non c'è un atto che lo fa decadere con coperture coerenti a quel punto a quello che il governo pensa di portare a casa come più deficit dall'Europa, perché questo è il fatto. Ma scatta automaticamente, Alessandro? La risposta è sì. Per precisione, visto che continuo a leggere su alcuni autorevoli organi di informazione che aumenterebbe l'IVA dal 10 al 13, no, aumenterebbe dal 10 all'11 e mezzo, esatto, e dal 22 al 25, perché nel frattempo la clausola era stata modificata, sì, con l'ultima manovrina. Ma la risposta è sì, aumenterebbe l'IVA di 4 punti e mezzo, aumenterebbe dal primo gennaio senza via di scampo. È ovvio che è quasi certo che qualunque cosa accada, il governo in carica, prima di sciogliere, prima di ciò Mattarella decida di sciogliere, interverrebbe per decreto. Questa è l'ipotesi che si fa in queste ore, che si intervenga per decreto per sminare queste clausole. Perché? Anche perché la Commissione, come ricordavi tu prima, di fatto ha silenziosamente, con molta discrezione, non si capisce, non l'ha detto, ma sui numeri si è capito che insomma clausole per Bruxelles non ci sono più. Siccome Matteo Renzi ha detto in tutte le salse che non avrebbe avuto alcuna intenzione di onorare quelle clausole, la Commissione l'ha preso in parola e gli ha fatto, tu capisci, cioè, che però spiegare ai nostri ascoltatori e contribuenti che la Commissione non lo dice ma prende atto che non ci sono più, e contemporaneamente spiegargli che però scatta automaticamente l'aumento dell'IVA, io, c'è un limite oltre il quale Kafka ce lo perdiamo per strada e la gente poi se la prende con noi dicendo che siamo noi che seminiamo il terrore e non capiamo niente. Ma a questo punto, Luca Cifone, cosa ragionevolmente davvero si può credere a Gentiloni di fare prima? Scrivere pezzi con decreti di una manovra che magari chi arriva dopo poi ricambia? Oppure limitarsi solo a un decreto che fin da questo momento diluisce nel tempo, cioè rinvia nel tempo, non dall'inizio di gennaio ma di almeno un trimestre, l'aumento automatico delle clausole IVA, come spiegava adesso Alessandro, sempre che tu sia d'accordo? Che pensi, Luca? Ma no, io penso che è una delle possibilità che soprattutto in ambienti, diciamo, all'interno del PD viene presa in considerazione. Faccio notare che anche un intervento solo sull'IVA minimale potrebbe non essere indolore, perché tu comunque per farlo devi trovare delle coperture alternative. E o le fai completamente finte, ma insomma, oppure in campagna elettorale devi dire taglieremo questo e questo alla vigilia, diciamo, della possibile campagna elettorale, dici allora su questi quasi 15 miliardi 7 li prenderemo così e così, che ma, ne so, con altre cose sull'IVA. Vedi, stai facendo un esempio, Luca, che secondo me di tagli, è importante per questo. L'ipotesi che Gentiloni faccia cose prime, siccome deve comunque per fare qualunque cosa inventare coperture, significa comunque pagare un prezzo elettorale. È questo che io non capisco nella volontà che voi cogliete. Diciamo che è una cosa ambivalente, nel senso che da una parte toglierebbe, chiuderebbe un argomento, nel senso di dire ma l'IVA non scatta, e dall'altra però lascerebbe il cerino nelle mani di chi lo fa e probabilmente se, ma dico perché mi avventuro in un campo di supposizioni politiche che diciamo se più chi per lui pensasse che facendolo fare a Gentiloni lui se lo toglie, diciamo, non se lo intesta, non sono sicuro che questo calcolo poi sia vincente. Ipotesi, parliamoci chiaro, come può dire solo uno che oramai non sa quanto resta qui a questi microfoni. Ipotesi, Gentiloni, figlio della serva, che non è più né del PD, né di Renzi, né di nessuno, può dire delle cose, il suo partito campagna elettorale dirà quello, e che lo abbiamo messo noi. No, ecco, allora, per capirci proprio in maniera un po' fuori dai denti, un minuto adesso informazione sul traffico e adesso tentiamo di capire cosa bisogna aspettarsi che avvenga, per esempio, sulle banche, perché quando torniamo in onda vi leggo intanto uno sviluppo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta per tentare di capire ma si può votare a settembre, ottobre con la legge di bilancio pendente? Risposta sì. Basta che poi sia approvata entro il 31 dicembre. Ma gli aumenti automatici dell'IVA, quello che resta, quei 15 miliardi di aumenti automatici dell'IVA, scattano se non si fa qualcosa prima e non si trovano coperture, almeno per la parte di quei 15 miliardi che ancora dovrebbe valere per l'Unione Europea per farci diminuire il deficit, scattano automaticamente dal 1 gennaio? Sì, anche a questo non è. Allora, che cosa far fare a Gentiloni? Luca Cifone ci diceva, beh, potrebbero anche pensare di fargli fare delle cose, ma qualunque cosa faccia, se deve inventare qualche copertura, c'è comunque un prezzo da pagare, però potrebbero dire in campagna elettorale che insomma questo non impegna il futuro. Nel frattempo non c'è solo la parte della legge di bilancio, perché ci sono poi anche le due banche venete. Nel frattempo che cosa è avvenuto? Vi leggo l'agenzia: i fondi Atlante e Atlante 2 non inietteranno altre risorse nelle banche veneto dopo che gli amministratori delegati della Popolare di Vicenza, Fabrizio Viola, e di Veneto Banco, Carros, hanno sondato la disponibilità di questi SGR, quella guidata da Pennati, a partecipare alla ricapitalizzazione dei due istituti. Oggi è arrivata la risposta di questi: allo Stato non si riscontra le condizioni per qualsiasi ulteriore investimento nelle vostre banche da parte dei fondi gestiti. Lo si sapeva, perché questo. Però in parole povere c'è anche questo miliardino sui privati, che è diventata l'ennesima dimostrazione dell'Italia che ha fatto finta di non capire fin dall'inizio che bisognava, secondo le regole vigenti, versarlo. E adesso questo è un altro bel pasticcio, perché più si avvicinano le elezioni, più mandarle in risoluzione per questo governo e per il PD è complicato, e del resto però non si sa che fare. Tu su questo, Luca, che pensi che farà il governo attuale? Io penso che c'è un paradosso, perché il governo da una parte avrebbe i soldi da spendere, quelli della famosa provvista dei 20 miliardi da usare anche per Montepaschi, ma non li può usare perché, molto semplificando, l'Europa non glieli fa usare. Esatto. I privati che era l'altra alternativa. Nessun privato rimette soldi sapendo. Esatto. Di chiedere alle banche, diciamo, in salute di sostenere quelle non in salute, questa cosa non lo fanno. Hanno già dato. Quindi non so se il governo si riserva un ulteriore margine di pressione sull'Unione Europea in nome del, appunto, di anche di qua dare, chiediamo lo sconto, siamo diventati. No, ma magari, diciamo, solleticando questi argomenti che a cui per esempio Moscovici si è mostrato sensibile, di non favorire il populismo eccetera, però li vedo molto stretti questi margini, ecco. Allora, Alessandro Barbera, ci spieghi un secondo, ma che cosa sarebbe cambiato quando la settimana scorsa abbiamo visto quello che ci avete ripetuto entrambi, cioè che la Commissione in realtà ha adottato, in vista di quello che avviene in Italia, la lente meno dura, intransigente rispetto a quella che sembrava in passato? Che cos'è che avrebbe determinato questa nuova attitudine più comprensiva verso l'Italia? Dare una mano a Renzi? B. L'effetto delle elezioni Macron, che dà a Moscovici più effettivamente flessibile da sempre per il suo carattere e cultura rispetto a Dombrovskis, più margini? Oppure il realismo del fatto che tanto non ci sarà un governo forte che potrebbe far esplodere l'Europa? Si sono autoimmunizzati gli italiani col proporzionale, al massimo continuano a non crescere, ma chi se ne frega, si sono messi nella condizione di non essere più un problema. Quale di queste, Alessandro Barbera, per capire la maggior comprensione dell'Unione Europea nei nostri confronti? Ma la sensazione è che ci sia dietro un ragionamento molto politico, per una volta estremamente politico e poco burocratico. Il 2017 è iniziato con l'incubo della vittoria dei populisti in Olanda, con l'incubo della vittoria della Le Pen in Francia, con l'incubo dell'esplosione della AfD in Germania. Nessuna delle tre cose si sta realizzando, nelle prime due non si è realizzata, la terza è molto improbabile, l'AfD si sta sciogliendo come neve al sole. Resta agli occhi della Commissione il rischio populista in Italia e la totale ingovernabilità in Italia, e quindi la Commissione sta facendo di tutto per far sì che le forze istituzionali, nella fattispecie PD e Forza Italia, trovino un modo di, come dire, trovino una soluzione o trovino in qualche modo una strada per poter dare una garanzia di governabilità che in Italia in questo momento per il 2018 è improbabile. Se il 2018 dovesse essere l'anno di ingovernabilità, con la situazione dei conti pubblici e delle banche di cui abbiamo parlato fin qui, le probabilità che l'Italia torni a essere il nuovo epicentro, il nuovo 2011, sono molto alte. Posso farti una piccolissima postilla? Ecco, tutta quella che vuoi. Alla questione di cui parlavamo prima, come coprire le clausole di salvaguardia che il governo è tenuto a sminare. La risposta, che so sembrare incredibile, ma c'è tutto, c'è scritto tutto, sì, a questa domanda è a pagina 5 del programma di stabilità, sì, nella quale, leggo testuale, il governo, il Ministero del Tesoro scrive: per quanto riguarda la composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni, si prevede la disattivazione delle clausole di salvaguardia, a cominciare dagli effetti strutturali della manovra di aprile 2017 e a ulteriori recuperi di gettito a parità di aliquote. Parentesi, contrasto all'evasione fiscale. Sì, sì, traduciamo queste cinque righe, il governo sta dicendo che i 15 miliardi di clausole di salvaguardia che pendono sulla nostra testa saranno coperti con gli effetti della manovra appena in via di approvazione, che vale per il 2018 5 miliardi, e ne restano 14 un po' di lotta all'evasione fiscale. E quindi più split payment e più robe attraverso cui drenare liquidità alle imprese, bastonare quelli del gioco e così via. Questa roba qua, su, non prendiamoci. Comunque è così. Sta scritto già testualmente che è così. Certo, la fervida fantasia dell'Agenzia delle Entrate a questo punto meriterà qualche premio letterario internazionale, perché spacciare per lotta all'elusione degli aumenti di entrata deliberati su chi e su come, lo split payment di questo è un drenaggio di liquidità. L'anno prossimo sarà tra i 15 e i 16 miliardi per tutti i fornitori, non solo del settore pubblico ristretto, di tutte le società pubbliche e delle maggiori società quotate. Una mazzata clamorosa, visto che non si viene ammessi all'autocompensazione fiscale. Detto tutto questo, andiamo secondo da Luca Cifoni. Qual è invece la tua risposta sulla maggiore comprensione che la Commissione europea ha dimostrato? Cioè, insomma, c'è la flessibilità politica, quella che tutti continuano a dire, moltissimi, non tutti, che non c'è mai stata in questi ciechi burocrati. C'è invece, dice Alessandro Barbera. Tu che dici? Ma sì, sono sostanzialmente d'accordo. Come ricordavi giustamente tu, Pier Moscovici ha sviluppato delle considerazioni squisitamente politiche sul populismo e su altri argomenti, e quindi poi probabilmente, certo, è stato anche archiviato, per così dire, insomma, il caso Francia, e questo cambia un pochettino lo scenario. Vorrei anche dire che, non per così, insomma, però penso sia corretto farlo, riconoscere al lavoro di Piercarlo Padoan, sì, in questo un merito, che diciamo un lavoro magari poco appariscente, però insomma su questo fronte esterno sicuramente non si può negare che abbia svolto un'opera cui il governo attuale e forse anche quelli futuri gli dovranno essere sicuramente in una certa misura grati. E aggiungiamo poi che spesso, voglio dire, in realtà i toni più duri gli sono stati riservati, al di là delle opposizioni che lo devono fare per circostanze obbligo, ma spesso negli ultimi mesi, da dicembre in poi, gli sono arrivate anche staffilate dal vertice del suo stesso partito, non del suo partito, non è iscritto, ma voglio dire del PD, del pilastro del governo, con tutta questa diciamo distanza molto molto velenosamente distillata verso i tecnici, eccetera eccetera. La realtà è che, come ricordava Luca Cifoni, rimanendo sempre tecnicamente inappuntabile, cioè con dei negoziati sfinenti con la Commissione europea e incardinando l'impostazione fino all'inizio del governo Renzi con un terreno tecnico, cioè come si fa a calcolare il cosiddetto output gap, cioè la differenza tra il PIL potenziale e quello reale nei paesi euro deboli come l'Italia. Ecco, l'esperienza internazionale maturata al fondo Padoan si è riversata in un'impostazione così tecnica che non ha mai dato la possibilità alla Commissione di considerarlo un irredimibile accattone di maggior deficit, mentre invece il PD gli chiedeva picche e pugni, fai capire che l'Europa è fatta di cattivi che guardano al deficit italiano con il sopracciglio di chi semplicemente ci considera dei pitocchi. Allora, Padoan secondo me ha ragione, Lucifoni avrà dei meriti. Detto tutto questo, se siamo riusciti a farvi capire qualche cosa di più, cari ascoltatori, questo era il nostro obiettivo. Grazie a Alessandro Barbera e Luca Cifoni. Io dico solo che forse tutti questi casini si potevano evitare. In un paese normale non avverrebbero, ma siamo in Italia, come diciamo tutti quanti, con rassegnazione alcuni, io tra quelli, e con mancanza di rassegnatone altri, e io la notte, mancanza di rassegnazione, mi divento un lupo che ulula! Continuate con Radio 24, appuntamento con Alessandro Mina domani mattina alle 8:20 su Attenti a noi due.